mio sogno. Bisogno normale, affetto speciale, sommati insieme aiuterebbero il seme del disio a fiorire. Amierei, coprirei le distese del mio sogno. Bisogno normale, affetto speciale, sommati insieme aiuterebbero il seme del disio a fiorire. E pianto il seme del bene attraverso la purificazione insieme al volo del bisogno materiale avverso. Ma scopro il pianto del fiore del mare che ogni volta nasce. Vorrei e vedere se riesce dal bisogno materiale, ma scopro la realtà che ogni volta sale con le circostanze più crude che fanno pensare a verità nude. E scopro che poter volare è necessario avere, fuggire sempre dal desiderio reale, mortifica le sicurezze del cadere. E scopro che per quanto è bella la tua anima, è un fiore stupendo nel cesso di terra, nutrendo alla strada del mondo. Amirei, coprirei le distese del mio sogno, bisogno normale, affetto speciale, sommati insieme aiuterebbero il seme del desiderio a fiorire. Del denaro sono tentazioni troppo forti, il male che bussa nei porti, la tentazione prende per mano e risuona con le onde a mare. E anche se non voglio limitare la mia vista ai soldi, scopro che questi sono il sale delle rose calde dei miei sogni. Vorrei nelle acque salate tra predatori e fate, dolci donne strozzate, scalate la mia speranza, e a volte sicurezze materiali fanno aspirare ali della tua assenza. Amerei, coprirei le distese del mio sogno, bisogno normale, affetto speciale, sommati insieme aiuterebbero il seme del desiderio a fiorire. Pianto il seme del bene attraverso le purificazioni insieme. Assieme del male.